Presidente, Bill, quelli piccolini, molto compatti, quelli che ci stanno in un palmo di mano, dove ovviamente ho aperto, ho modificato qualcosa, se no ci va con 4 watt. Ma di nuova concezione o roba vintage come le mie, dai, come con questa? No, sono nuove queste, sono quelle piccole, praticamente riesco a metterlo sopra il cassettino accendisigari, diciamo così, ma è veramente minuscolo, però diciamo sono riuscito a portarla su di con le vitamine, capito, con questa, e ovviamente mi ha ampliato anche la banda, dai, perché se no prima ero solo con i 40 e 4 watt con l'omologazione. Ho capito, hai detto cosa sei riuscito a ottenerle, ma hai messo un aiutino oppure hai solo modificato il watt dell'apparecchio? Praticamente ho tagliato un ponte, dopo ho spostato un giamperino che c'era e poi ho dovuto fare una micro saldatura col saldatore quello da 8 watt, perché se no si scioglie tutto, talmente è piccolo, e quindi ho saldato un altro ponticello e praticamente con questa modifica sono riuscito a ottenere qualcosina in più in quello della macchina, se no non rendeva proprio niente, capito? Quindi senza mettere scatolette esterne, dai, hai aumentato solo il watt dell'apparato, dell'apparecchio. Sì, esatto, senza nemmeno levare sigilli, per cui non si vede niente. Bene, dai, quindi te la cavi? Diciamo ogni tanto mi appento, capito? Quindi qualcosina riesco a farla. Beh, ci avrai anche l'attrezzatura giusta. Sì, beh, se non hai quel saldatore lì sulle schede che circolano adesso, se no rischi di bruciare tutto, capito? Prima ti sentivo che avevi problemi col citofono, ma che modulo è? Quelli terraneo, Ticino? Ma se non sbaglio è un Ticino, ma avrà più di 30 anni, Allora è vecchio, sì, però molte volte i vecchi moduli, se sono quelli della serie Terraneo Ticino, basta cambiare il modulo e si trovano alla Elcom, perché io ne ho messo a posto diversi di citofoni, e noi quello condominiale che abbiamo adesso abbiamo cambiato sarà 15 anni fa e ancora va. L'unica cosa è che quando suonavano tutti potevano aprire il contatto, allora era stato inserito all'interno un piccolo moduletto dove, per esempio, quando uno suona da me e io rispondo, tutti gli altri in quel momento non possono intervenire finché io non chiudo la comunicazione, gli altri sono inattivi, quindi molte volte dipende anche se è inserito quel modulo, se sta creando problemi quel modulo che magari blocca tutte le linee, è rimasto bloccato. Sono abbastanza semplici, poi dipende se hanno l'impianto a 2 fili, quella a 5 fili digitale, però per sostituirlo e metterlo nuovo in un condominio la spesa è un po' salatina, capito? Più che altro sono i costi di lavorazione, portare tutti, perché ti cambiano i fili ai piani, dentro gli appartamenti, eccetera, quindi è una bella spesa. Sì, poi visto che sono fili sottili, sottilissimi, tipo quelli dell'impianto del telefono, ma quelli che ti passano all'interno, non quelli grossi che arrivano da fuori. Sono fili sottilissimi. Sì, sono sottili. Io ho aggiustato un impianto terraneo, però in una casa privata, no, a Sant'Orsola, da un mio collega, perché aveva chiesto un preventivo perché non gli funzionava più il citofono. E gli ho detto, se vuoi ti do un'occhiata io e vedo. Gli hanno fatto un preventivo di 800 euro, gli volevano cambiare tutto il cavo nuovo, i 2 apparecchi interni che c'aveva nell'appartamento, più quello del cancello. Invece non c'era niente praticamente. Lui aveva messo la medicina per ammazzare le formiche, perché era estate, l'aveva messa anche dentro la scatoletta del citofono, perché dice uscivano da lì. Cosa è successo? Con un po' di condensa questo DDT in polvere praticamente ha bruciato tutta la scheda elettronica, no? Tutto il modulo, quindi quello lì è andato in tilt, quindi è bastato solamente togliere il modulo, fare la fotografia, guardare com'erano i collegamenti, portarlo alla Elcom, praticamente ha preso lo stesso modulo per 70 euro, gliel'ho piazzato, tolto il vecchio, fatto i collegamenti, perfetto, ho aumentato il volume perché c'è anche la possibilità di aumentare il volume e il citofono ha ripreso a funzionare, si è risparmiato 800 euro di spesa, ha speso 70 euro più 3-4 bottiglie di birra che poi gli ho bevuto. Qui sta la stessa cosa, guarda, qui o è che sia l'acqua magari dall'esterno perché non è molto riparato, è una posizione un po', è proprio in facciata, non so come sia schermato. È iniziato piano piano a sentirsi male, poi adesso proprio non si sente più, funziona solo l'apri porta, quindi a noi ci suona, chi da giù schiaccia il pulsante suona all'interno e noi apriamo, chiediamo così dalla porta chi è e basta, è un periodo che non sta funzionando. Sicuramente il modulo allora che sta funzionando male perché lavora a metà. Non lo so, mi sa che l'abbiamo aperto qualche anno fa, forse per inserirci i cartellini nuovi. Ma non ricordo neanche come ci ha fatto all'interno. Aspetta che ho sentito qualcuno fischiare sotto, avanti. Capo, buonasera, ho tirato un colpo importante io, buonasera a tutti. Beh, bombo l'Antonio, come va? Capo Antonio, sono da questa parte, chi sei tu? Via Nuno e Sole, no? No, io sono vicino qua, vicino a te. No, tu già lo so, l'altro amico. Via Carlo qua, a zona via Luna e Sole, Antonio. Capo, salutoni Carlo, salutoni anche a te, o Franco mi pare, no? Sì, sono Franco. Come va Antonio? Tutto a posto? Tutto a posto, non arrivi una fucilata stasera, cosa hai fatto? E le altre volte magari mi sentivi in macchina magari e il segnale era basso, adesso sono a casa e sicuramente esco meglio con l'antenna, poi col il fatto che non sia nuvoloso magari riesco ad arrivare anche meglio. Guarda, sei quasi 9.40 qua. E stasera addirittura parlavo con Claudio Di Muros e mi ha detto che gli arrivavo più forte di Roberto, capito? E ho detto, io sto uscendo qua a casa, ho la radio quella con 5 watt omologata e non ho fatto niente, capito, in questa di casa, questa è pulita. Tu sei più in alto di Roberto? Sì, sono, penso che come zona un pochettino più alta, ma è diciamo il vantaggio che è un palazzo che non ha vicino altri palazzi più alti, quindi ho tutto il campo aperto, dove ho l'antenna io sopra il tetto praticamente vedi tutto dall'Asinara, vedi a Osilo, tutta la zona di Ossi, Tissi, capito? Dove puoi vedere a vista vedi tutto. Guarda, sei esattamente 9.35 sei qua. Arrivo un bel forte, non so quanti watt stai usando, ma c'è un bel forte qua. Bene, meglio così. I watt sono pochini, però sono contento che esce bene. Anche se tra un po' cambio antenna e ne metto una più bellina e più performante. Ora c'è la Ringo come la mia. No, adesso c'ho una SD27, è un dipolo in alluminio, piccolino, diciamo le due parti fanno 5 metri e qualcosa, però andrò a mettere una J-Pol, quella della Smartec, capito, che ha delle caratteristiche buone e non ti sale il QRM alto, riesce a sentire i segnali più bassi, ha delle buone prestazioni, insomma. Quello del coso l'ho capito, quello del QRM ho capito che cosa è, praticamente le antenne con radiali lo fanno purtroppo. La J-Pol no, della Smartec, un'antennona, credo che sia sugli 8 metri di antenna. Sì, lo so, ma tanto io se dovessi mettere anche una 5 metri 80 tipo quella che ha preso Natalino adesso, non è che mi dà più fastidio da 6 metri a passare a 8 metri, tanto lo spazio c'è, non credo che saranno 2 metri di altezza in più che danno fastidio, capito? Quindi dovrei metterla agevolmente poi. Poi non hai bisogno neanche di mettere pali di qualsiasi misura, tanto tu hai già l'altezza, quindi ti basta un palo da 2-3 metri e sei a posto. Sì, infatti proprio ieri ho trovato un palo bello grosso, dovrebbe essere almeno da 60 perché è bello grosso in alluminio, però non so se 2 metri o 2 metri e mezzo o 3 metri, ma non avevo il metro, quindi adesso domani lo misuro e vedo un po' se è il caso di piazzare quello che è molto più grosso, e quindi piazzandogli un'antenna che magari può oscillare o meno, è meglio mettere un sostegno più sostanzioso, insomma. Sì, sì, va bene. L'importante è che la schedula sia robusta, non solo il diametro, ma anche il materiale deve essere robusto, la schedula, dai, così si dice in gergo. Guarda, io ho le zanche che le ho fissate su una parete da 8 cm di una casetta, un vecchio vaso d'espansione, no? E praticamente ho forato e ho messo delle placche, capito, che la traversano, e le ho fissate coi bulloni, ce ne sono tre, quindi è abbastanza diciamo forte come sostegno di un palo. Adesso ho uno di quei pali telescopici che arrivano sino forse a 6 metri, capito? Anche se non l'ho sollevato tutto, ecco, e sarò intorno ai 3 metri e mezzo, 4 di sollevamento dal tetto. Perché 8 centimetri, insomma, non è che sia un tensore elevato, però se il muro è fatto bene con un buon cemento dovrebbe tenere, dai. Avanti, Anto. Prena voglia, se ne mette la sostanza buona, tiene come se tiene. Tiene benissimo, perché cioè, ci vuole un buon palo, un buon sostegno, poi dopo già. Ecco, per come l'ho messa io questa antenna, l'ho attaccata praticamente, il palo mio è attaccato nella tappa del condizionatore, è fatto tutto un coso, e boh, quello lì è forte. Molto forte, perché regge il condizionatore, ti puoi immaginare. E non ti disturba? No. A me quelli che ci sono a fianco mi disturbano le scale, sento le scale. Sicuramente sono pompe vecchie, magari di vecchia concezione, poco schermate. Invece le nuove, quelle che hanno montato nuove, neanche si sentono. Vabbè, queste già sono, non sono vecchie vecchie, sono. Ma non li accendono mai. Cioè, anche noi non ne accendiamo mai di queste cose, perché non aggiù di scappa che le correnti all'Enerno, io faccio la bombola, metto la bombola e scaldo tutta la casa. E va, quelli fanno anche fresco? L'estate è una storia, quello che io non funziona neanche tanto bene. Quindi c'è una scarico magari. Avanti, Carlo. Pianto, sì, se hai usato quelle staffe già sono forti senza dubbio, se sorreggono i condizionatori, insomma, quelle cose lì, sì, però un po' di disturbo già lo creano. Io per esempio, dove passa il cavo adesso della mia antenna, passa vicino a un filo elettrico dove c'è collegato il display di comando della caldaietta gas. Quando la caldaietta gas entra in funzione, sento delle scariche proprio sulla radio, capito? Perché è vicino. Infatti adesso devo spostare il display che ce l'ho dentro la cucina e lo riporto dove era prima, fuori nel terrazzo, quindi accorcio il filo e lo metto a fianco alla caldaietta, e così lo distanzio dal cavo dell'antenna, perché se no sento proprio la caldaietta. Hai già la caldaia, allora, condensazione, quelle di ultima generazione, quindi? Sì, ce l'ho da almeno 7 anni, è una Ariston, io c'ho il gas, quello Medea, ho fuori il contattore del gas, e a fianco al terrazzino, sempre a fianco al contattore, ho messo la caldaietta del gas e mi fa sia la cucina che l'acqua calda. E basta, no, il riscaldamento no? Sono negativo, il riscaldamento ce l'abbiamo a gasolio ancora, anche se anche lì è predisposto per il gas, c'è il contattore a fianco al locale caldaia, ma ancora abbiamo quello a gasolio, sinché non ci obbligano, diciamo, a cambiare, attualmente conviene più il gasolio che il gas, quindi per un fattore, diciamo, economico stiamo andando ancora col gasolio. Dici che conviene il gasolio? Ma non lo so, io vedo mia madre, che, vabbè, non è mia madre, non è il condominio, casa singola. E consuma un sacco più di me. Io anche io sono allacciato come te al gas di città. Tu forse paghi l'IVA al 10 perché non hai riscaldamento, io lo pago al 20, 23, 22, se non mi ricordo quanto sia. Però non mi trovo male, se non aumenta ancora questo gas. 22% di IVA, mezzo zocco. Quando metti il diciamo il riscaldamento aumenta l'IVA, se invece lo tieni solo per l'acqua calda e la cucina, la paghi, il gas lo paghi al 10% di IVA. Non so già, è come la tombola. Se ne vuoi più grande per la caldaia, da 25 in poi si paga 22% di IVA. Ah, IVA dai. Spendo di media, diciamo, se io prendo un anno termico tra cucina e acqua calda e riscaldamento, più o meno sono sulle 100-110 euro al mese. Che poco, c'è gente che paga 300-400 euro al mese. Io dico spalmato per tutto l'anno, io divido la somma da 12 mesi e più o meno mi viene. Certo, in inverno ci sono mesi che spendi 300 euro, è logico, però d'estate ci sono bollette che arrivano a zero. D'estate? Ma d'inverno, oh Giulia! E tu di media invece come ci metti col gasolio, Carlo? Guarda, noi come spesa di gasolio per tutto il condominio abbiamo intorno agli 11.000 euro per tutta la stagione, diciamo. Tanto arriva più forti di te, Carlo, sai che è uno dei più forti qua. Secondo te arriva anche più forte di me. Carlo arriva forte, però forse tu sei più forte qua, perché infatti sei più vicino di Carlo. Diciamo che sei in mezzo tra me e lui, tu sei al centro. No, io dicevo come a condomino cosa vi viene come spesa col gasolio? Guarda, praticamente adesso non te lo so dire perché praticamente noi paghiamo sempre la stessa quota mensile per tutto l'anno perché andiamo a accumulare qualcosa poi anche nei periodi diciamo estivi dove l'impianto è spento, quindi non c'è consumo di gasolio, però noi versiamo sempre lo stesso tanto, praticamente dovrei dividere 11.000 euro diviso 17, quindi verrebbe la spesa, capito? Però non l'ho mai fatto di preciso, aspetta, te lo dico subito, dai, riprendi Antonio. Adesso che scende con ho pochi watt, non è che sto tirando fuori chissà che cosa, non lo. Magari c'è il varco aperto per te. Tanto non arriva forte, cavolo. Anche a me arriva forte. Metti la portante lui. Adesso ti ho portato a 9. Metti la portante, Anto. Ora, 1, 2, 3, prova. Con l'attenuatore sei Santiago 6, con l'attenuatore, lui è 9, però se parli, anzi passi il 9 tu. Considera i picchi di modulazione che ha questo apparecchio. Anzi, prova a fare un picchio. Aspetta. Ma il fischio va di meno, invece quando hai detto ora sei arrivato a 9 più 10. Prova a parlare tu invece, fai un hola anche tu, Luca. Detersivo! Non la giocate. Una sorte, Antonio c'ha dei picchi di modulazione allucinanti. Cioè, figurati, da 6 va a 9-10. Intorno ai 600 euro l'anno mi viene. E quindi molto meno rispetto a noi. Quindi andate bene, avete una caldaia condominiale, dai. Sì, poi la speranza è che portino il metano e allora magari la musica cambia perché i costi dovrebbero diminuire rispetto a quello che sta usando Medea, che è gas con aria propanata praticamente. Ma non so se ti sei accorto, questi ultimi anni il metano sta diventando carissimo, non so quando possa convenire, sta diventando tutto. Per adesso quello che conviene di più è il pellet, momentaneamente. Sì, confermo, è così. Se tu vai nei negozi, vai tipo da Bricomen, eccetera, c'è a Cattaste la gente che compra pellet a manetta. Sì, io conosco colleghi anche che pagavano tipo 1.500 euro all'anno di gasolio una casa singola sempre, adesso ne spendono 500, ma ci girano in magliettina, eh? Io adesso sono in magliettina, perché quando è acceso l'impianto, la sera, dopo le 6 inizi a spogliarti perché c'è caldo, io sono al terzo piano, per cui sia sotto che sopra praticamente è riscaldato anche lì, quindi l'appartamento è già caldo, capito? Noi lo accendiamo dal dopo pranzo e c'è lo spegnimento alle 9.30, ma tutto che i radiatori alle 10.15 sono ancora caldi, capito? Non, la mano ovviamente ce la lasci, se la metti adesso ancora scottano e quindi la devi spostare subito, però scalda parecchio e anche il gasolio. No, scaldare scalda, c'è un bel potere. No, io non lo tengo mai, il mio è sempre acceso, la caldaia è sempre notte e giorno, è regolata a 23 gradi, non la spengo mai, tutto l'inverno. Tanto guarda, il consumo non si discosta da accenderla, diciamo, mezza giornata, perché la casa si raffredda e poi la devi riscaldare. Ho fatto la prova, ho visto che il consumo è uguale, quindi la casa è sempre a 23 gradi. Quello è ottimo, sì, magari lo puoi fare in maniera indipendente quello, ma quando devi sottostare ai regolamenti di condominio bisogna adottare, diciamo, un orario che vada bene per tutti, purtroppo è così. No, io sono addirittura qua, sono l'unico che ha il riscaldamento, quindi io scaldo i piedi a quella di su, giù no perché il caldo non ci va giù, gli altri hanno, qualcuno c'ha qualche pompa di calore, qualcuno ha qualche stufetta, vanno avanti così. Avanti Antonio. Io c'ho la stufa, c'ho qua, quando accendo scalda tutta la casa, tanto non fraccata, è piccola cosa, scalda subito, capito? Io poco fa ce la faccio già giù, qua mi sale tutto il calore, ci sta l'addio. Perché il caldo va in alto. Perché io qua c'ho la camera da letto, giù c'è la cucina e il bagno, la nostra casa è piccola. Questa non è piccola, ma è che sono molto alte, come a volte superano i 3 metri, quindi c'è un discreto spreco anche di energia. Luca, ci sei? Luca, non c'è? Carlo? Luca si deve essere spostato. Sì, io Luca lo stesso mi diceva che arrivo forte, anche lui qua mi arriva a fondo scala e lo sento tutti bene io. Segnali deboli da Sassari e dintorni non ne ho, capito, sono tutti sopra i 9 più. Fammi sia una posizione del genere. Io invece non vedo nessuno, ma voi vi ascolto bene perché siete vicini, però appena si allontana la gente, tipo Sorso, Telluri, anche zone alte come Osilo per esempio, arrivano tutti i bacini, segnale di 2, Sorso arriva a 1.5, Portatore arrivano a 1.5-2, tutti bassi, Alghero non ne parliamo, non sono mai riuscito a parlare con Alghero. Ma no, io sento tutti a bomba. Ma l'antenna è sul tetto, io purtroppo non ce l'ho. Sì, anche io Alghero ci arrivo tranquillamente, con questa antenna da casa ci ho parlato, sentivo Santiago 7, Radio 4, ovviamente un pochettino più lontano, però sento Sorso, Porto Torres, stasera parlavo con Claudio di Muros e lui mi arrivava 9.30, lo sentivo molto bene, però mi ha detto che stavo uscendo con 80 watt. Figurati, io lui con 80 watt io lo ascolto un segnale di 1 con 80 watt. Infatti anche a me lui mi ha chiesto con quanti watt stai uscendo, che antenna avevo. Ho detto guarda, l'antenna è la mia solita, solo che sino a un mese fa era in polarizzazione orizzontale, invece da un mesetto l'ho girata e l'ho messa in verticale, infatti mi è salito anche di più il QRM, prima ne avevo un po' meno, capito? Però come l'ho posizionata adesso in verticale, nei collegamenti locali a breve distanza vado meglio, invece prima andavo meglio con i collegamenti a lunga distanza in SSB, capito? Perché andavi in direttiva, adesso sei praticamente omnidirezionale, spari da tutte le parti, dai, adesso. Esatto, infatti a me quello che interessa è insomma anche il locale, perché insomma 4 chiacchiere te le fai alla radio e se ti senti meglio e ci senti soprattutto meglio è la cosa migliore, però non ho problemi a sentire un po' tutti. Capo, avanti Antonio. Capo, no, io non ho problemi, ero abbastanza forte, perché c'è un motivo, cioè io se do 200 watt, per dire, sono 200 watt, non ho nessuna perdita, perché ho solo 6 metri di cavo, quindi tutto quello che do è tutta un'antenna. Io ne ho forse 3 metri, diciamo dalla scrivania attraversa il muro e fuori c'è l'antenna attaccata alla finestra. Sono non a chilometro zero, a metro zero sono. Ah, ma se sei metri di cavo, poi io non uso l'R58, uso l'altro, come l'H500, normalmente cosa è? Cioè, ti puoi immaginare cosa ti occupa un pende? Cioè, quello non ha nessuna perdita. Cioè, avrai l'H o il 1000, oppure il 155, quello grigio? Ehi, chi è il suvaggio? Non è grigio il mio è il modello nero. Ma io ho quello grigio. Ma non l'ho piazzato ancora, ce l'ho pronto. Se dovessi mettere l'antenna sul tetto, domani. Invece, adesso sto usando un vecchio RG8, quello grosso proprio da... Aspetta che sia un centimetro e mezzo, va. Sì, lo conosco. Sto usando proprio quello lì, sto usando. Ma è un altro pianeta. Non perde nulla l'antenna. Sì, guardi, questo cavo lo usavano, anzi l'avevano usato i carabinieri tanti anni fa. Ogni tanto loro cambiano i cavi, no? Si sostituiscono. Un amico me l'aveva procurato un paio di metri, ce l'aveva ancora a disposizione. E lui qualche pezzo l'ho utilizzato per questa antenna qua, per questa canna da pesca, dai. Avanti, vediamo poi se è diventato Luca, se no riprendi tu Carlo. Sì, io sono qua, vi sto ascoltando, questo controllo computer. Poc'anzi ti abbiamo rilanciato, non c'eri. No, sono aspettato il tempo di rispondere. Purtroppo sono qua, dai, vi ascolto, Per caso già vi rispondo. Ciao, amico Gubbelli. Ehi, va bene, buon lavoro allora. Avanti, Carlo. Guarda, come cavo d'antenna l'ho preso nuovo quando ho fatto l'impianto e ho preso uno di quei 200 RG213, quello della Messi e Paoloni, capito? Il modello è RG213U, poi c'è scritto MIL Plus 10. Allora, poi io ne ho un pezzo di questo qua, l'avevo preso da Fusaro. È sempre di Paloni, CE, ve leggo così, CE, Made in Italy, classe A++ mi dice qua, 50 ohm, R N60332 12 R118, cose varie, boh. Però la sigla è, non è il 10 ma il classe A++. Qua invece mi dice C17 Plus 10, quindi dovrebbe essere quello più recente, però questo l'ho preso su internet, perché come si chiama? Fusaro, quello di via 4 novembre voleva un bel po' di euro a metro, mentre io l'ho preso la metà di quello che mi ha chiesto lui, mi è arrivato in 2 giorni. Sì, ma io ne ho preso un paio di metri per fare il condensatore dell'antenna e lo stub, l'adattatore diciamo di impedenza, quindi ne ho preso poca roba per fare 2 spezzoni da 60 cm, anzi uno da 60 e uno da 9 cm. E quindi l'ho preso qua per quello. Invece quello, l'H155, quello l'ho preso anch'io da internet. Su internet trovi diciamo delle buone occasioni. Io ne ho una ventina di metri, sempre di questo RG213 della Messier Paoloni, però era troppo corto, capito? Perché prima ce l'avevo su una vecchia antenna, poi l'avevo tolto, conservato in scatola e ce l'ho in garage dentro la scatola, e sono una ventina di metri. Invece adesso ne ho preso 30 metri direttamente, e quello che c'è in più l'ho arrotolato bene con le fascette, l'ho lasciato unico, però ha un'ottima resa e poca perdita eccetera. È giusto quel fastidio della caldaietta che ho, ma già lo risolvo tra qualche giorno spostando quel display, quindi elimino il filo e lo metto dove era prima. Sì, dai, piano piano si risolve tutto. Avanti Anto, ti sento un po' stanco però sono un po' stanco, sì. Tutta tanti travaglietti, cappa, pure io, ma quanto avete pagato voi la K155? Non mi ricordo, però molto meno di quello che costa qui, non ho, come si chiama, la fattura, quindi ti do una pizzeria, un euro e qualcosa, però è più di un euro sicuramente, 1,50 euro, 1,30 euro, 1,20 euro, non lo ricordo, mi sembra, se non vado errando, l'ho preso da Media Globo, può essere, Non lo so, comunque me ne voglio comprare un po', me ne voglio prendere e via, perché RG58 non è la matessigosa, no? Con questo io mi trovo molto molto molto meglio. No, perché sono cavi a bassa perdita, capito? Zappa non ha buona schermatura, questi dei sei paoloni 213, insomma è un ottimo cavo. Sì, sì, è che è un po' ingombrante il 213, invece il 155 è simile all'RG58 come dimensione, là, già lo saprai. Sì, sì, infatti questo rimane un po' rigido anche per piegarlo, ti dà un po' di... fortunatamente ho solo due curvette, una dove mi entra dentro casa e l'altra quando scende dal tetto, capito? Però diciamo sono curve abbastanza dolci, quindi lì non ho avuto problemi. Però quando poi ho dovuto entrare il cavo, ho dovuto forare un mobile nel retro, però, no? Dove c'è il pannellino quello sottile. E lì insomma ho dovuto faticare un pochettino perché è bello rigido. Non fagli mai fare pieghe, diciamo, a squadretta, sempre curve dolci, perché si può rovinare il cavo. Sì, sì, no, quello già senz'altro. Infatti poi mi ha fatto una curva naturale, io gli ho dato ancora un po' di, perché l'ho preso da 30 metri, quindi ho la possibilità di allungare, quindi l'ho tirato, gli ho fatto fare tutto il giro, mi fa un cerchio, l'ho fissato con delle fascettine, così se ne sta buono, perché sennò è anche un po' indomabile, se tu lo lasci là fa l'effetto molla e ti sposta anche lo smitter, capito? Addirittura. Quanto ne hai tu? Me dici, Antonio. E quando al tetto? Guarda, io sono al terzo piano e sopra di me ho altri tre piani, quindi sono 3x3, 9, 9 più, lì ci saranno altri 4 metri, quindi siamo a 13 più il palo che sono altri 4 metri. Diciamo che 20 metri, quello che avevo prima era sacrificato, una ventina di metri insomma, in tutto saranno 18 e qualcosa, però l'ho lasciato lungo perché non mi andava di tagliarlo. Me l'ha lasciato per entrarti bene dentro casa. Sì, tanto ce l'ho sui pensili in cucina dove c'è un bordo e nemmeno si vede, quindi l'ho lasciato là tutto bello disteso con le sue curve naturali, non mi ha creato nessun problema. Capo, hai fatto bene. Hai fatto. Non l'hai fatto tipo matassa, no? No, negativo, l'ho lasciato come entrato, poi la discesa che va verso la radio, l'ho passato dietro il pensile, però c'è un bello spessore, no? E praticamente esce da lì e lì ho attaccato uno strumentino di misura, no? SVR, potenza, e praticamente l'ho collegato allo strumento che me lo sono fissato col biadesivo alla parte interna del mobile e poi da lì esce il cavetto piccolino che va alla radio. Sì, ma il cavo in più che c'hai? Mentre sono 30 metri, il cavo in eccesso dove? Sul tetto? No, non l'ho lasciato sul tetto, ho lasciato giusto una mezza curvetta, il resto ce l'ho tutto sul pensile in cucina. Lì, come l'hai messo? Come l'hai sistemato il cavoletto? Considera che io ho una cucina ad L e c'è una parte che è lunga 4 metri, quindi come è sceso i pensili in alto sono alti e quindi gli ho fatto fare due giri praticamente, quindi sono una decina di metri che me ne è avanzato, capito? 8 metri circa. Perché dicono, cioè, che è meglio spargerlo sul tetto se il cavo in più piuttosto che fare giri tipo spirale. No, vuol dire niente. Lo posso tirare, non ho problemi, lo tiro dall'altra parte del terrazzino, mi esce su dai pensili e poi nel caso lo lascio sul tetto, capito? A me mi hanno sempre insegnato così, il cavo in eccesso, non fare mai giri, che potrebbero, forse potrebbe cambiare l'impedenza, non lo so, mai tu c'è una pizzeria. Il cavo in eccesso lo spargi in una curva larga, ampia. Sì, ho capito, sì, ma infatti la mia intenzione è per di sistemarmelo meglio, diciamo è così da quando ho fatto l'impianto, poi ho detto ma non so se tirarlo su, lasciarlo qua, siccome non mi dava fastidio l'ho lasciato sui pensili, perché nemmeno si vede, capito, quindi in cucina non vede niente. Non ti dà problemi di stazionare, roba così, no? Guarda, stazionari, io cambio tutti i canali, eccetera, sempre, non mi sale nemmeno a uno, capito? Non si muove, capito, lo strumento. Io vado al 40, vado al 20, vado al 10, è sempre uguale. E allora è a posto, dai. Va bene così. Avanti, a tu. Ma non vuol dire niente. Cioè, poi quel capo che sta utilizzando lui è a massa perdita, non le fa niente. Proprio no, non perde nulla, anche se lo metti in casa non succede niente, mi hai capito? No, sono sempre cose che sentite dire dai nostri vecchi radioamatori, dai nostri vecchi CB. Ma non succede assolutamente niente, non succede. Poi quando è un capo buono che non perde, non ha problemi, no. Però ogni 58 ti potrebbe fare qualche difetto, ma quelli lì, manco baridea. No, ma si sente che sta uscendo bene, Carlo. Sì, no, ha ragione Antonio, se metti il capo buono rispetto ai cavetti classici, le RUG58, insomma le RG58 non va bene, ma se hai pochi metri magari ti può anche andare bene, magari dalla radio all'antenna, ma quando hai distanze più lunghe sempre usare, io perlomeno ho sempre fatto così, mi sono trovato bene, cavo buono e lungo. Sì, piano piano sto cambiando anche gli spezzoni, quelli che uso diciamo all'interno, che vanno dagli strumenti agli apparecchi, sto eliminando quello grosso che è un po' ingestibile fare le curve da uno strumento all'altro e man mano sto mettendo l'H a 155, dai. Meglio vai. Ascolta un attimino, quanto tiene quel dipolo di potenza? Allora, quello che ho io è sino a 250 watt, c'è scritto che tiene. Mamma mia, è attacco che Romeo gatta, ci lo fumo, riesce. Vabbè, forse ce la potrebbe fare a reggerlo, dai. Sì, però se mi dai un attimo, c'ho qua il manuale e se lo controllo ti dico subito, Antonio, con esattezza, perché non vorrei sbagliarmi. Adesso lo cerco, te lo dico tra un attimo. Avanti, Fra. E guarda anche il guadagno, quanto hai di guadagno? Guadagno ne ha poco, è uguale a zero. Essendo un dipolo, no? Sì, esatto, quello lo so con certezza. È che sto guardando la scheda che dovrei averla qua dove c'ho tutti i manuali. Adesso lo vedo, datemi un attimino, avanti Fra. Però è strano, cioè guadagno pari a zero, però esce che è una meraviglia. Forse è l'altezza che conta anche. La posizione, avanti Antonio. No, vedrà nulla. Perché poi alla fine molti dicono, guadagno c'hai tot, ma no, voi sono bugiardi, sono, perché alla fine puoi avere anche 0,1, ma di poli sono un po' particolari, sono anche, sentenne qua fatte così, però è silenzioso, senti tutti. Allora, lunghezza, sì, sino a 250 watt puoi mettere di potenza, e poi c'è il gamma match per la regolazione, e praticamente va da 26 sino a 32 MHz. Ti ha sorpassato, ti ha offra. Cazzo, mi arriva un bel forte qua, no, già va bene, già. 250 watt, a voglia. Forse stavamo parlando assieme, Carlo. Può essere, sì. No, stavo dicendo a Antonio che praticamente sino a 250 watt e la lunghezza è di 485 mi sa, aspetta, perché in francese sto traducendo e non so se corrispondono, però era 5 metri e qualcosa la lunghezza totale. Non so se saranno bracci da 2,75 più o meno. Sì, allora la frequenza va da 26 a 29, no, ho sbagliato, l'altra era un altro modello, adesso ho trovato la sua, no? E va da 26 a 29, addirittura massima potenza 1000 watt, 200 Hz, 0 decibel di guadagno. Però c'è bene. Guarda che hai tu. Il modello è SD27 Half Wave di Paul, così è scritto. Ah, è forte però, è super forte. Cazzo, mi stai arrivando più forte di quello che ha il Sacro Cuore, lo passi di brutto. Più forte di Franco, una cosa allucinante. E anche qua arriva forte, non so, arriva bene. E di cosa è fatta questa antenna? Cavo, come si dice? Quaziale? No, è tutto in alluminio, è un blocco in alluminio, ed è la Sirio, è Sirio Antenne, quindi ottima marca, da quel punto di vista la Sirio già fa sempre buone cose. Tutto in alluminio, c'ha solo i gommini negli estremi, gli isolatori diciamo, e poi per collegare tutti i tubi laterali, vitti, però c'è l'alluminio perforato e anche lì ci sono delle guarnizioni per diciamo le infiltrazioni. Come diametro? Ah, non è molto diametro, sarà poca roba, non è molto grosso, è più o meno come il cavo all'inizio va, diciamo è un po' più grosso, poi le parti terminali sono come il cavo RG213. Telescopico, dai, entra uno dentro l'altro e poi gli metti le viti. Esatto, sì, è telescopico in ambedue i lati e va, lo puoi mettere come vuoi, in orizzontale o in verticale. E poi basta, non c'ha bobina, niente. Sì, ha un gamma match, praticamente ce l'hai presente la J-Pole, dove c'è il tubo lungo e poi quell'altro più piccolo per la regolazione, è simile a quello, e lì puoi agire regolandolo, capito, in base a, io l'ho centrato sui 27, insomma, ed è perfetto così, ho seguito le istruzioni che ho trovato e l'ho, diciamo, regolato giù in garage prima di portarlo sul tetto. Come l'ho messo era perfetto, è sempre rimasto così. E vuol dire che l'impianto è fatto bene. Quando l'antenna è perfetta, alla fine deve andare bene, per forza. Il cavo è a posto. Eh sì, adesso niente, che volevo un pochettino eliminare il QRM troppo alto, e con quel modello lì di J-Pole pare che questi problemi li, diciamo, li risolvi, non dico del tutto, però lo abbassi notevolmente, quindi riesci a sentire anche segnali radio, che ne so, Radio 2 e Santiago 4, capito? Quella roba lì che invece col QRM alto non senti proprio. Ma io sento segnali di uno con questa antenna, perché anche questa è molto silenziosa, è tipo la Game Master, li sento benissimo, meno che ci sono disturbi proprio delle pompe di calore, se no sento tutti anche con segnali di uno. Io QRM, quello che ho è solo dovuto a queste pompe di calore che c'ho al fianco, se no è zero sempre. Sì, oggi vedo che ce n'è poco e niente, è bella silenziosa e dipende anche poi dalle condizioni atmosferiche molte volte. Beh, se c'è un temporale in zona le scariche, quelle le sento anch'io, ma quello è un'altra cosa quello. Avanti a tu. Cappa, è così, No, io la verità, con questa Ringo non ho problemi di QRM, a 2 sempre, più o meno è sempre a 2, perché le antenne che hanno radiali prendono più mollezza, capito? Le antenne che non hanno radiali sono più selettive. L'ho avuto anch'io qualche anno fa, la Mantova, giù in campagna, però, fa qualche decennio fa. Ottima antenna, però come dici tu, un po' rumorosa. Secondo me la migliore, l'hanno detto anche tanti, la migliore è la Mantova 1, poi le altre sono più rumorose. Sì, ho avuto 91. Ho ancora qualche pezzo, sto provando a ripararla. Oh, che i radiali, quelli in vetro resina, si sono tutti marciti, quindi le boccole in ottone si sono staccate dalla resina. Un macello, sto cercando di ricostruirli così. È da provare. Parlano anche molto bene della Game Master Sirio. Sì, ultima antenna, però non lo so. Siete sovramodulati, Antonio e Franco. No, dicevo che, che qualcuno di noi ce l'ha qua in zona e ha avuto problemi col vento, si è spezzata già qualche volta. E quello non è una buona cosa, non è, perché ho sentito che ha delle ottime prestazioni, però se insomma è delicatina, se la metti in alto dove sono io, non lo so poi se alla fine si spezza anche da me. Non so se abbia fatto qualche errore dall'inizio quando l'ha piazzata, non lo so, ho fatto attacco, qualche problema gliel'ha dato. E non so, lì c'è una serie di stilo anche lì da, se non sbaglio, da fissare con le fascette, mi confermi, Fra? Sì, c'è la parte elettrica, diciamo, che corre all'interno di questa canna in resina, in vetro resina, e poi più che altro devi rispettare le misure, non devi metterla mai troppo in tira, perché essendo in metallo subisce la dilatazione e di conseguenza anche il restringimento. Poi, se tu la piazzi troppo in tira, magari poi arriva l'inverno, il metallo si restringe e magari si può dare problemi, capito? Ho capito, sì, senza dubbio può essere anche una cosa del genere. Devi rispettare i segni, anche se sembra che rimanga un po' molle all'interno dell'antenna, non succede niente. Le misure sono quelle e va messa così. Molta gente invece cosa fa? Per metterla in tira porta un po' avanti il raccordo, invece il raccordo deve arrivare a battuta, l'antenna deve lavorare a battuta degli innesti. E poi la fascetti, qualcuno gli ha messo anche dei rinforzi con quei tubi da impianti elettrici, gli ha messo dei rinforzi nelle aggiunture e poi l'ha vulcanizzata. E sicuramente quindi diventa ancora più robusta. Ho capito, mi sa che ce l'ha anche Giulio la Game Master, però non ce l'ha molto in alto, capito? Quindi, e lui ce l'ha da diverso tempo e anche Giulio esce abbastanza bene. Io l'ho sentito anche a Bonorva, qualche settimana fa ho fatto la strada che collega Bonorva a Giave, quindi perché dovevo passare da Giave, perché a Bonorva l'uscita era bloccata, che ci sono dei lavori. Ho provato a fermarmi proprio sulla punta più alta da Giave e parlavo tranquillamente con la radio della macchina, con Claudio, mi sentiva lui con un segnale diciamo 4, 5 e radio 5, solo Claudio però mi riusciva a tirare fuori, stava usando lui la Game Master, la J-Pol. Caspita, sì, so che Giulio ha la Game Master, se non sbaglio proprio lui ha fatto quel trattamento di rinforzi nelle aggiunture. No, ultima antenna, silenziosa, poi non devi accordare niente, come la piazzi è già pronta, una banda abbastanza molto larga, ultima antenna. Sì, senza dubbio, sì, la Sirio fa buone antenne comunque. Antonio, vai avanti tu. Ma sono fissato io, ma per me l'alluminio è alluminio, rugoso è rugoso, cioè la retroresina è retroresina. E non so tra i due materiali quale resiste meglio alle intemperie e al tempo, ma io ho sentito anche di antenne in vetroresina che si sono rovinate dopo pochi anni. Per non sbagliare si prende in alluminio, non sbaglio. L'alluminio è indistruttibile, se la piazzi bene è indistruttibile l'antenna. Io ho un'antenna tanto criticata, però è sempre su. Va bene Anto, è perfetta la tua antenna. Capa, la criticano molto, però è sempre sul tetto. Non ci sono più salito. Va bene Anto, va bene, benissimo, non bene, benissimo. Sì, l'alluminio, e poi c'è alluminio e alluminio, ci sono antenne robuste, l'alluminio e poi c'è antenne in alluminio che che non servono a nulla. Ne ho avuto anch'io qualche esperienza, quella, non ricordo che la facesse con l'antenna, tre radiali un po' corti sotto, però anche prendere in mano era leggerissima, infatti ce l'ha piegata subito, un colpo di vento ce l'ha piegata. Poi c'è la Mantova, lui ne ha preso su sé. L'unica piega che mi aveva fatto, praticamente l'aveva urtata una gru di un palazzo di fronte che stava girando, e mi ha piegato leggermente l'ultimo pezzettino, e mi aveva rotto anche il ragnetto, quello per la corrente, che respinge le scariche, dai. Ho capito. Ebbene, non te la sei fatta rimborsare? Sì, gliel'avevano rimborsata, però non l'avevo mai cambiato, praticamente avevo solo addrizzato l'ultima parte. A posto del ragnetto ci avevo messo un tappo in plastica sagomato, che sembrava un ragnetto fatto da un tappo in PVC in plastica, dai. Ho capito, e comunque funziona sempre, dai. Quindi è importante averla aggiustata, però se il danno te l'avevano provocato altri, meglio aversela fatta rimborsare, insomma. Sì, allora credo che fosse sui 120.000 lire, se non vado errando, costava così prima. E il costo penso che già sia quello, perché attualmente una Game Master costa intorno ai 150-160, dipende dal sito dove l'acquisti, capito? Quindi più o meno i prezzi sono quelli. Caruccia come antenna, C'è anche questa Graziuli adesso che sembra fatta bene, è che c'ha questi radiali lunghissimi, credo che siano da 2,75 ogni radiale, quindi devi avere uno spazio non indifferente, e non so neanche se reggano poi il peso di queste maledette cornacchie, maledette tra virgolette. Avanti Antu. Cappa, dice che sta Graziuli, la Super Lem l'avete mai sentita? Anche quella c'è, me è buca e grossa come antenna. Sì, la stavo guardando anche ieri, la Super Lem, anche quella deve essere buona, anche quella c'è un bel guadagno, C'è la Fusaro, costa 170 euro quasi. Sì, vedi, c'è il prezzo della Game Master. Ma una bestia antenna però, È che secondo domani metti ti fa TVI, che disturba le antenne che ci sono sotto vicino. Invece la Game Master non disturba niente, cioè quello di buono. Lo so, però cavolo, sempre di sta storia, capito? È troppo troppo deboluccia. Secondo che c'hai vicino, ti rovina la vita qua. Ne sappiamo qualcosa qua in zona. Avanti Carlo. Se ti fa TVI hai finito, perché poi ti suonano, ti rompono le scatole, e giustamente la gente non sopporta e non tollera bene queste cose, capito? Quindi anche io, appena ho piazzato l'antenna, ho provato piano piano, anche io provavo, avendo l'impianto centralizzato della TV, ho detto tanto se disturba da me, disturba dagli altri, quindi ho provato e sino adesso ce l'ho già un paio di mesi e non ha dato nessun disturbo, ecco. Ma una cosa tu, non dire niente a nessuno nel palazzo. Sì, è perché non si vede la tele. Sì, ordina della televisione, per prendere meglio il canale. Sì, 8 metri di antenna. Se io voglio prendere meglio Monteoro, cosa c'entra? Tele Radio Alghero. Appunto, se si può evitare, tanto chi ci dà va sono una massa di tonti, non ne capiscono niente, capito? Se si può evitare di parlarne è meglio, capito? No, perché non stanno ascoltando una chat, anzi stavo leggendo una chat su Facebook, e questa si lamentava perché il suo televisore tutti i giorni verso le 6:30, diciamo, di sera, mancava il segnale, tutte le sere, e la gente subito nei commenti sotto, quelli sono i baracchini subito. Lo so già, perché sono ignorante, di buon occhio, anche se io diciamo, non, qua non mi ha creato mai nessun problema e mai nessuno mi ha detto niente. Non è molto vistosa questa che ho, non, esteticamente non è che la noti neanche tanto, perché è sottile, messa su in alto, eccetera. Certamente la J-Pole avendo 8 metri, però infatti abbasserò un po' il palo, capito? Perché per non salire troppo in alto. Ma anche quella, non avendo radiali, tanto arrivi a 5 metri, arrivi a 8 metri, non saranno questi 3 metri in più. Io quando la cambio non dico niente, buonanotte, salgo sul tetto, la cambio e riscendo giù. Intanto devi avvisare qualcuno per salire sul tetto, no? Sono negativo, anche perché io sono una sorta di fattotum qua per quanto riguarda condominio, autoclave, impianto di riscaldamento e diciamo molte volte gli interventi li faccio io. Ma così risparmiano pure, quindi devono stare anche zitti. E poi sono tutti sono tutte famiglie di gente anziana, diciamo l'unica famiglia che ha figli ancora in età di scuola, di università è la mia famiglia, gli altri sono tutti gente che ha 80 anni e più, 70 anni, capito? Dai 70 in su, quindi non è che ne capiscano niente, sul tetto non ci sale nessuno, invece ho le chiavi di tutto, va in ascensore, va in autoclave, la casetta insomma dove c'è la caldaia del riscaldamento, intervengo io anche per quanto riguarda la registrazione di portone, molte volte non chiude, c'è la molla da regolare, la regolo io, le lampadine le cambio io, quindi per qualsiasi problema prima si rivolgono a me e poi all'amministratore. Più o meno sono nelle mie condizioni, anch'io qua sono l'ultimo arrivato, si può dire. Gli altri sono tutti grandi, anziani, qualcuno addirittura non c'è più. Adesso ultimamente mi è arrivata una ragazza che sta studiando qua, sta usando l'appartamento di una signora anziana che è andata a vivere a Olbia con la sorella, e qui ci ha messo questa ragazza che sta studiando. Dai. Il resto sono tutti, tutti grandi, e anche io il portone me lo regolo io, specialmente tra il caldo e il freddo, quindi tu cambia la potenza della molla, perché l'olio diventa più fluido d'estate, devi un po' strozzargliela, se no batte troppo forte. E quello che posso fare anch'io lo faccio io, così risparmiamo, dai. Sì, io idem, io faccio tutte le regolazioni anche nell'impianto dell'autoclave, perché noi abbiamo il pozzo condominiale e praticamente peschiamo acqua dal pozzo e poi c'è il filtro al pescaggio del pozzo che manda l'acqua ai serbatoi, quindi periodicamente cambio quel filtro, poi cambio anche il filtro che abbiamo all'ingresso dell'acqua, diciamo di Abbanoa, che però non usiamo, e poi reintegro l'aria che c'è nel polmone per dare la pressione a tutto il condominio. Ho capito, quindi tutte quelle regolazioni le faccio io e grazie a Dio qua non si lamenta mai nessuno, no? Della pressione o non manca mai l'acqua. Ci mancherebbe altro, avanti Anto. Anto. Ehi, aspetta, devo salire le scale, perché ero in bagno. Tranquillo, ti abbiamo disturbato. Sì, è così, dai, riprendi, Anto, ci puoi riprendere. Sì, sì, comunque l'unica cosa è per evitare casini, io qua non lo sa quasi nessuno, per evitare casini e di facere i fatti suoi, capito? A chi da voi state, ah tu vai al baracchino, ah tu qua no. No, non, meglio mai non stanno in giro, è meglio, capito? Tu lo puoi fare perché c'hai quell'uscita per andare sul tetto, invece qua per uscire sul tetto bisogna togliere tutte le tegole per fare un buco, dai. Gappa, di quell'altro lì sono fortunato, ma anche ce l'avrei dovuto piazzare in qualche altro posto, non gli avrei detto nulla. Lo stesso. L'avevi piazzata e boh. Sì, poi per legge la possiamo mettere l'antenna sul tetto. Per legge si può mettere. Io la mia è anche assicurata, sto pagando 15 euro all'anno. Tutte le antenne sono assicurate, dai. Gappa. E poi mi dirai come bisogna fare per fare quello. Ma me l'ha fatto un radioamatore. Praticamente mi ha fatto questo versamento. Aspetta che lo prendo, che guardo cos'hai, dai. Gappa. Non c'è problema, me la posso assicurare pure io. Ma qua già non c'è problema, voglia che è tranquilla la storia. Capito. Però io, per evitare discussioni, rompimento di scatto, io non aggiungo nulla a nessuno. C'ho quello che ho, però mi posso rifatti me. Perché tanto la gente, come sa, viene subito a rompiti di cazzo, anche se no, se non stai disturbando. Ragione Antonio, è così, ma anche io ho fatto così, sai, mica ho chiesto a nessuno, metto questo. Sono andato, ho messo, sono sceso, non ci sono più salito.